Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati all'appuntamento su Radio 24 con la cronaca, i fatti e i personaggi dell'Italia in controluce. E quello che stiamo per sentire è un grande personaggio dello sport e del ciclismo. Come commissario tecnico della Nazionale è stato regista delle vittorie altrui, ma proprio in quel ruolo ha esercitato un carisma ineguagliabile, con una leadership che nessuno ha mai osato mettere in discussione. Parliamo di Alfredo Martini, 23 anni, alla guida delle due ruote azzurre. Oggi compie 90 anni, ha attraversato molte stagioni, portato al traguardo tantissimi campioni e vincendo 6 volte l'oro ai mondiali. Ricordiamole, nel 1977 con Moser, nell'82 con Saronni, nell'86 con Argentin, Fondriest nell'88, Bugno nel 91 e nel 92. L'intervista ad Alfredo Martini è di Dario Ceccarelli. Allora, caro Alfredo, 90 anni, un lungo viaggio nella vita e su due ruote. Come si diventa Alfredo Martini? Prima di tutto, 90 anni passano in un baleno. Ecco perché bisognerebbe dire, specialmente ai giovani, di adeguarlo bene il tempo. Perché è importante non sciuparlo. Passa così veloce, impalpabile, e poi arrivi quando ti metti lì per fare poi il punto della situazione e ti accorgi che sei già arrivato a un'età vegliarda, insomma, via. I 23 anni alla guida della nazionale di ciclismo. Guidare una nazionale, qual è la grande difficoltà? Bisogna essere molto a conoscenza di quello che succede nell'ambiente, cioè a dire, tu devi conoscere bene i valori dei tuoi corridori, devi conoscere bene il valore degli avversari, devi conoscere bene quel percorso di quel circuito dove si svolgerà il mondiale. Attraverso la conoscenza di quello prenderai di mira un po' quella trentina di corridori che hanno attitudine a quel tipo di percorso e li devi seguire per il periodo fino alle scelte. E sai, è una cosa che tu devi fare con grande attenzione, perché ci va di mezzo il sentimento del grande pubblico, quello che ti dà la grossa responsabilità. Chi è che ti ricordi con più affetto? No, non è che io possa fare una classifica. L'affetto è stato sempre il massimo che io potevo avere verso tutti coloro che si impegnavano. I corridori sono della gente generosa, altrimenti non avrebbero scelto uno sport complesso e difficile e faticoso come il ciclismo. Bugno, ad esempio, poteva essere il più grande corridore degli ultimi 30 anni e magari invece... Ma gli ultimi 30 anni è stato il corridore più completo, eh? Lui, se si voleva andare a spaccare il capello in due, e Bugno magari gli è mancata un po' di convinzione dei grandi mezzi che aveva. Non è facile prendere la maglia rosa al primo giorno e portarla fino in ultimo, e non è facile nemmeno vincere due mondiali in fila, no? C'è riuscito Bettini, questo Paolo Bettini bravissimo, che oggi è il nostro commissario tecnico al posto del povero Franco, ma insomma Bugno è da leggenda, Bugno, eh. Un anno fa moriva Franco Ballerini, ecco la prima cosa che ti viene in mente. È uno dei dolori più grossi che ho provato nella vita, essere insieme il giorno prima, aver parlato fino alle 5 del pomeriggio della brutta vigilia e poi non vederlo più, perché chi conosceva Franco riusciva ad amarlo veramente per la sua intelligenza, per la capacità che aveva dimostrato, per quello che aveva fatto come corridore, ma per quello in particolare stava facendo come commissario tecnico, uno che in 9 anni porta l'Italia a 4 medaglie d'oro e un paio d'argento. E Franco, quando è mancato Franco, siamo sentiti un po' come in un vestito troppo largo. Adesso si festeggia tra poco l'unità d'Italia. Tu sei uno che ha saputo tenere assieme tanti pezzi d'Italia. Cosa ne pensi di questo festeggiare in un modo un po' così, senza troppa convinzione? Troppa convinzione? Ma non è una cosa che ci fa onore, perché in questi 150 anni, che non sono molti di fronte alla storia, l'Italia ha fatto grandi cose. Bisogna essere riconoscenti a tutti loro che si sono adoperati per cercare di fargli fare dei grossi passi in avanti. Ma io legherei il nostro ciclismo alla storia dell'Unità d'Italia, perché anche il ciclismo, se l'Unità d'Italia è partita dal 1861, il ciclismo è partito in quel periodo lì, quindi è andato un po' di pari passo con quello. Il ciclismo è sempre stato vicino alla storia. Se ti dico Bartali. Bartali è stato il corridore più forte come organi, come di resistenza che ci sia stato nel mondo, penso. Coppi. E Coppi sviluppava delle velocità astronomiche, perché uno che fa il record dell'ora e uno che fa delle fughe di 190 km come fece alla Cuneo Pinerolo con le strade tremende che c'erano, e come fece anche nel 52 nella tappa che arrivava a Sestiere con la Croce di Ferro, il Telegrafo, il Galibier, Montgineve e Sestiere, sono cose che le fa solo uno della classe eccelsa. Merckx? A me se non per nulla lo chiamavano il cannibale, perché quando arrivava secondo si metteva a piangere. Sono più le cose che hai realizzato o il rammarico per quelle che non hai fatto? Ma sono sempre quelle che non hai fatto, che non hai fatto. Quelle che tu sei riuscito a fare sono minime nel confronto di quelle che ci sarebbe stato da fare. Ed è tutto anche per questa puntata, ci trovate anche su Facebook oppure scriveteci controluce@radio24.it. Buona giornata.